Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Oggi parleremo della proroga dell'entrata in vigore del divieto dei test sugli animali, di bracconaggio, di lupi, di animalità con la rubrica di Francesco De Giorgio. Il tutto squisitamente condito dalla ricetta di fine anno del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni e dalla consueta inimitabile scaletta musicale di Giuseppe Coco. Una puntata come sempre ricca di notizie e spunti di riflessione. State perciò ancora con noi per i prossimi 30 minuti. Fortunatamente i carabinieri forestali non vanno in vacanza. È difatti dei giorni scorsi una maxi operazione antibracconaggio in diverse regioni d'Italia come il Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Toscana e che ha portato a 18 arresti, oltre 50 persone indagate e 46 perquisizioni. Vi diamo qualche numero giusto per rendere l'idea di cosa si muove intorno al traffico di uccelli. Pensate che sono stati sequestrati oltre 20.000 volatili, tra vivi e purtroppo anche morti, ed è emerso che venivano raccolti ben oltre 1.000 nidiacei a settimana, in media, di tordo bottaccio. Secondo l'accusa, l'avifauna veniva poi conferita ai privati residenti e a noti commercianti della provincia di Brescia, i quali poi a loro volta smistavano a singoli acquirenti delle province di Brescia e Bergamo. Un'altra parte consistente del traffico ha riguardato il Veneto e in particolare le province di Vicenza e Treviso, quest'ultima un epicentro importante con 19 perquisizioni e 5 arresti. Gli esemplari catturati dopo lo svezzamento potevano arrivare a valere, pensate, anche 300 euro. La risposta di oggi, si legge in una nota della LAC, Lega Abolizione Caccia, se da un lato rappresenta un'ottima notizia per la tutela della biodiversità, dall'altro conferma la necessità di un'azione più stringente da parte del governo con l'attuazione del Piano Nazionale contro l'uccisione di uccelli selvatici, che è rimasto finora solo sulla carta e l'urgenza di leggi ben più severe di quelle attuali. Right here. Right now. Anche il CAUS, Committee Against Bird Slaughter, ONG tedesca che opera molto nel Mediterraneo in Italia sul tema dell'antibracconaggio, punta il dito contro tutti i governi che si sono alternati a partire dal 2013. In quell'anno, infatti, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura relativa proprio all'uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli. L'Europa constatava un altissimo tasso di illegalità ai danni degli uccelli migratori nel nostro paese, una mancanza di risposte adeguate per fronteggiarli, in primis una non volontà di inasprire le sanzioni per i bracconieri. È bene inoltre ricordare che proprio all'inizio di dicembre il Consiglio di Stato aveva bandito definitivamente la pratica della cattura di uccelli selvatici in Lombardia, i cosiddetti roccoli, da destinare a richiami vivi, una sentenza tra l'altro con risonanza nazionale. Il Consiglio di Stato aveva inoltre ribadito che le catture degli uccelli selvatici con le reti, anche in forma di deroga autorizzata, sono illegali per contrasto con la direttiva europea sulla tutela della fauna selvatica e con la legge statale 157/92 sulla caccia. Insomma, qualcosa sembra si stia muovendo, anche se i governi sono lenti a prendere decisioni effettive, sembra che la corrente stia comunque andando in una certa direzione. Speriamo che l'anno nuovo ci porti buone notizie. Purtroppo per i selvatici, uccelli, procioni, volpi che siano, non c'è mai tregua. Un altro lupo infatti è stato investito in Abruzzo ed è il terzo vicino a Bussi sul Tirino. Questa è difatti una zona molto critica tra il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a causa della via Tiburtina, dell'autostrada, della ferrovia e di varie infrastrutture. Insomma, la fauna selvatica ne ha gli ostacoli da superare. Apprendiamo la notizia tramite un post pubblicato su Facebook dal presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, che dice delle cose a nostro avviso molto interessanti. Ieri si legge, ancora una volta abbiamo perso un magnifico lupo in un investimento. È il terzo in poche settimane, sempre in quell'area. È la triste conferma della difficoltà di protezione del nostro prezioso patrimonio faunistico. Noi ci stiamo impegnando su questo tema, continua Zazzara. Sia cercando la collaborazione dei responsabili delle strade, sia lavorando sui sistemi di indirizzamento e dissuasione degli animali, sia bussando a ogni porta per costruire un'efficace rete ecologica con corridoi per la fauna. Ma quello che farà la differenza sarà, come sempre, la migliore consapevolezza di coloro che sono alla guida. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems. Economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. No matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not, or not. La notizia dell'uccisione del lupo non è altro che l'ennesima triste testimonianza di come la coesistenza tra umani e animali, legata in questo caso allo spazio fisico, sia sempre più difficile in molti casi conflittuali. Noi e loro, noi umani, loro selvatici. Si tende spesso a ragionare per queste due categorie, quasi sempre in contrapposizione. Francesco De Giorgio, che come sapete cura ormai da qualche settimana una rubrica dedicata all'animalità, riflette proprio sulla relazione tra umani e animali. E per questa puntata di fine anno De Giorgio parte proprio da qui. Viviamo una realtà basata sulla distinzione tra animali e umani. E questo dove ci sta portando nella relazione con l'animale? Sentiamo. Buona animalità a tutte e tutti. Oggi volevo leggervi una parte del prologo del mio ultimo libro, Nel nome dell'animalità, che ora, a gennaio 2020, esce con una seconda edizione curata dalla casa editrice Lindau nella collana L'età dell'acquario e si troverà quindi facilmente in libreria. E quindi il prologo inizia così. Noi, animali umani, viviamo in una realtà costruita sulla distinzione tra umani e animali, partendo dal presupposto per cui qualcosa renderebbe speciali gli uni a discapito degli altri, creando un abisso tra noi e loro. In particolare per gli umani, questo sentirsi speciali ha decretato un amaro destino per tutte quelle caratteristiche animali che, anche nell'umano, costituiscono la più intima essenza dell'essere nel mondo e del dialogo con esso. In effetti, la perdita dell'animalità non riguarda solo gli umani, ma anche molti altri animali che con gli umani vivono strettamente. Cani, cavalli e altri ci appaiono con sembianze animali, sembrano esprimere una loro propria animalità, ma più spesso ne incarnano solo un lontano ricordo, un'ombra di quello che sono e dovrebbero essere. Ed ecco che, così sbiadita, l'animalità viene dimenticata, distorta, fraintesa, negata. In molti casi si arriva a scorgerla là dove non esiste, o a costruirsi addirittura un'idea bizzarra dell'istinto animale. E in questo senso un cane lo si conosce e riconosce solo all'interno di una relazione cinofila con l'umano. Un cavallo viene identificato come un essere preda della sua emotività, confondendo la bestialità con l'animalità, che è tutta un'altra cosa, per non parlare di varie altre proiezioni antropomorfiche e troppo umane. L'istinto in particolare viene spesso erroneamente assimilato ai concetti di reazione, impulsività, avventatezza, irrazionalità, finanche pazzia, ma da una prospettiva animale esso è invece qualcosa che appartiene alle dimensioni di cognizione, riflessione, accuratezza, congruenza. Questo perché l'istinto è cognitivo, nasce come dimensione di cognizione. Favorisce lo sviluppo di un animale cognitivo, cioè un animale abile a dialogare con il proprio mondo di riferimento, interno ed esterno. Un cane, un cavallo, un umano nascono cognitivi. La parte istintiva è dunque centrale nel creare una soggettività, una mente e un corpo di cui l'animale diventa pieno titolare attraverso il suo percorso di crescita. Questa cognitività animale, protagonista sul palcoscenico dell'istinto, viene in gran parte perduta a causa delle pressioni educative e addestrative, che ognuno di noi animali inizia a ricevere fin dalla più tenera età. Un simile addestramento delle soggettività, delle menti e dei corpi non sviluppa l'apprendimento a vivere, ma, contrariamente al pensiero comune, lo riduce. È un processo anche drastico che finisce col creare un vero e proprio analfabetismo animale, nell'ambito del quale un cane, un cavallo, un umano perdono la loro innata capacità di incontrare, conoscere e vivere il mondo, il proprio mondo, i propri mondi. History never repeats, I tell myself before I go to sleep. Don't say the words you might regret, I lost before, you know I can't forget. There was a girl I used to know, well, she dealt my love a savage blow. But I was so young, too blind to see. But anyway, that's history. And I say, history never repeats, I tell myself before I go to sleep. And there's a light shining in the dark, leading me on towards a change of heart. Si sta parlando molto di manovre economiche e del decreto mille proroghe. Vi chiederete cosa c'entra questo con la nostra trasmissione. C'entra e come, perché è proprio nel mille proroghe che riceviamo la notizia della proroga, scusate il necessario bisticcio di parole, per l'entrata in vigore del divieto dei test su animali di alcol, droghe, tabacco e finalizzati agli xenotrapianti. In prima battuta pensate che la proroga era stata di 2 anni, rischiando di far slittare lo stop all'impiego di animali dal 2020 al 2022. Ma in extremis si è ridotta a 1 anno, perciò se non verranno cambiate le carte in tavola per l'ennesima volta, il divieto entrerà ufficialmente in vigore dal 1 gennaio 2021. La LAV, Lega Antivivisezione, che da sempre è in prima linea proprio per una sperimentazione, una ricerca alternativa, dichiara: non è quanto chiedevamo, ma faremo presentare in Parlamento, nei lavori di conversione in legge del decreto, che dovranno concludersi entro febbraio, un emendamento per l'azzeramento della proroga. È bene infatti precisare che questa richiesta è sostanzialmente dovuta, in quanto non si tratta di un capriccio degli animalisti che chiedono di anticipare l'attuazione della norma, ma di far rispettare proprio quanto previsto dalla Commissione europea, che dal 2010 ha messo nero su bianco l'obiettivo dell'abolizione graduale della sperimentazione sugli animali, una realtà che solo nel nostro paese continua a consumare quasi 600.000 vite l'anno. Somewhere in this hip-hop soul community,

Artista dell'anno possiamo sicuramente eleggere Greta Thunberg, perché l'hanno inserita in diversi brani, pur non essendo una cantante. Il brano di cui sicuramente sentiremo parlare è questo di Jarvis Cocker, che ricanta Running the World in una versione classica fatta con i Kaiser Quartet. Un brano fa parte di una campagna di sensibilizzazione. Sciroppiamoci per la fine dell'anno, questo stanno ancora gestendo il mondo. E quindi già dal titolo si capisce di cosa possa parlare l'anno. Buon anno! Deserving will end up with the most. That the cream cannot help but always rise up to the top. While I say, shit floats. If you thought things had changed, friends, you better think again. Bluntly put, in the fewest of words, cunts are still running the world. Cunts are still running the world. Oh yeah. Mm-hmm. Now the working classes are obsolete. They are surplus to society's need. Let them all kill each other and get it made overseas. That's the word, don't you know, from the guys that's running the show. So let's be perfectly clear, boys and girls. Cunts are still running the world. Cunts are still running the world. Oh yeah. Yeah. Feed your children on crayfish and lobster tails. Find a school near the top of the league. In theory, I respect your right to exist. I will kill you if you're moving next to me. And it stinks. Yeah, it sucks. It's anthropologically unjust. But the takings are up by a third. So, cunts are still running the world. Yeah, cunts are still running the world. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, quindi per questa settimana è davvero tutto. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. Dunque, il prossimo appuntamento è per il 2020 con la puntata numero 517. La redazione di Restiamo Animali vi augura con tutto il cuore un felice anno nuovo e che il 2020 sia l'insegna per tutti e tutte, animali, umani e non, di più solidarietà, sensibilità e rispetto. Ci risentiamo dunque tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.